Ruta, la moabita virtuosa. Consideriamo la vita di una donna vissuta circa 3.000 anni fa, ma che ancora oggi è per noi un esempio. Mi riferisco a Ruth, e dal momento che non aveva un cognome perché a quel tempo non esistevano, la chiameremo Ruth, la moabita virtuosa. La sua storia la troviamo descritta nel libro omonimo della Bibbia. Leggiamo il primo capitolo. Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda andò ad abitare nel paese di Moab con la moglie e i suoi due figli. Il nome dell'uomo era Elimelech, il nome di sua moglie Naomi e il nome dei suoi due figli Malon e Chilion, efratei da Betlemme di Giuda. Essi andarono nel paese di Moab e vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Naomi, morì, ed essa rimase con i suoi due figli. Essi sposarono delle donne moabite, di cui una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e là dimorarono circa 10 anni. Poi anche Malon e Chilion morirono entrambi, e così la donna rimase priva dei suoi due figli e del marito. Allora si levò con le sue nuore per tornare dal paese di Moab, perché nel paese di Moab aveva sentito dire che l'Eterno aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Ella partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove si trovava e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. Ma Naomi disse alle sue due nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. L'Eterno sia buono con voi, come voi siete state. Con quelli che sono morti e con me. L'Eterno dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa del proprio marito». Poi ella le baciò, ed esse piansero ad alta voce, e le dissero: «No, noi torneremo con te al tuo popolo». Ma Naomi rispose: «Tornate indietro, figlie mie, perché terreste con me? Ho forse ancora dei figli in grembo che possono diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, perché sono troppo vecchia per rimaritarmi, e anche se dicessi, ho ancora speranza, anche se andassi a marito stasera e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Vi asterreste voi per questo dal maritarvi? No, figlie mie, perché la mia condizione è più amara della vostra, poiché la mano dell'Eterno si è stesa contro di me». Allora esse alzarono la voce e piansero di nuovo. Poi Orpa baciò la suocera, ma Ruth rimase stretta a lei. Allora Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Così mi faccia l'Eterno, e anche peggio, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Naomi si rese conto che Ruth era decisa a seguirla, smise di parlare con lei. Così fecero il viaggio assieme fino a che giunsero a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu in agitazione per loro. Le donne dicevano: «E questa Naomi?» Ella rispose loro: «Non chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita di amarezza. Io partì nell'abbondanza, e l'Eterno mi ha riportato a casa spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi, quando l'Eterno ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?» Così Naomi tornò con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta dal paese di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Il libro inizia con un riferimento importante. La storia che sta per narrare si è svolta nell'epoca dei giudici. Cosa significa il tempo dei giudici? Cosa aveva di particolare? Dio chiese ad Abramo di uscire dal suo paese Ur dei Caldei per andare dove lui lo avrebbe guidato. Quando arrivò in Canaan, Dio gli promise che gli avrebbe dato il paese. Ad Abramo nacque Isacco, ad Isacco nacquero due gemelli, Esaù e Giacobbe. Dio scelse Giacobbe quale erede delle promesse. Giacobbe ebbe 12 figli, e in pochi anni la sua famiglia prolificò fino a contare circa 200 persone. Queste scesero in Egitto e vi rimasero per 430 anni, diventando un popolo di circa 2 milioni di persone. Poi Dio liberò questo popolo che nel frattempo era diventato schiavo e lo condusse verso la terra promessa sotto la guida di Mosè, ma al confine di Canaan Mosè morì e il popolo di Israele entrò nella terra promessa guidato da Giosuè. La prima città che dovevano conquistare era Gerico. Giosuè mandò a Gerico 2 spie perché valutassero la situazione, e le 2 spie furono accolte e protette da una prostituta, Rahab. Per questo atto, in seguito Rahab venne accolta tra il popolo di Israele. Quando Giosuè morì, la terra promessa non era ancora stata conquistata completamente. Così gli israeliti continuarono a combattere. Dopo la morte di Giosuè, il popolo aveva abbandonato la fede in Yahweh, imitando l'idolatria delle altre nazioni che aveva vinto, per cui Dio rendeva Israele schiavo di questi popoli. Quando il popolo di Israele era oppresso, gridava a Dio, ed egli suscitava uomini coraggiosi e ripieni di fede che li liberavano. Questi uomini venivano chiamati giudici. In quel tempo Israele viveva nell'apostasia, ognuno faceva quello che gli pareva. E in questo periodo che un uomo di Betlemme, Elimelech, andò ad abitare con la famiglia nelle campagne di Moab. Quest'uomo aveva abbandonato il paese della promessa per andarsene in una terra straniera e fra un popolo corrotto, i Moabiti. Quante volte i credenti disprezzano le eterne promesse di Dio per occuparsi di ciò che non dura? Ma chi erano i Moabiti? Erano parenti degli israeliti perché erano i discendenti di Lot, nipote di Abramo. I figli di Lot erano nati da un incesto, cioè da rapporti sessuali consumati con le sue figlie. A quel tempo vi era pace tra Israele e i Moabiti, perché Israele viveva nel compromesso religioso. In effetti esiste anche una pace con il prossimo, che è il risultato di un sincretismo da parte dei credenti. Questa storia rispecchia la vita di tanti figli di Dio. Giunti nel paese di Moab, in terra straniera, i figli di Elimelech si adeguarono ai costumi del luogo. E siccome cattive compagnie corrompono buoni costumi, finirono per sposare 2 donne pagane, Ruth e Orpa, malgrado Dio avesse ordinato espressamente di non sposare donne con un'altra fede. Anche oggi tanti figli di Dio disubbidiscono a questo comandamento. Per cattive compagnie non si intende necessariamente persone malvagie, drogate, prostitute, ma coloro che non hanno il timor di Dio. In seguito Elimelech e i figli morirono, e Naomi rimase con le sue nuore nella miseria più nera. Avendo saputo che in Canaan c'era abbondanza di raccolto, decise di tornarsene a casa. Chiamò le nuore e le incoraggiò a tornarsene alle loro famiglie perché non poteva offrire loro un futuro. Dopo un primo rifiuto Orpa se ne andò, ma Ruth rimase risolutamente con Naomi, dicendo: «Non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio». Stupenda risposta, dimostrazione di un vero affetto verso la suocera e una vera fede in Dio. Tornati a Betlemme, Ruth andò nei campi per spigolare secondo le usanze degli ebrei, perché era un modo di sopravvivere per delle vedove. Infatti per ordine di Dio non si poteva mietere tutto il grano dei campi. Ruth andò per caso nel campo di un uomo potente e ricco di nome Boaz, che era parente di Elimelech, e gli fu notata da Boaz e lodata dai suoi servitori. Quando Naomi seppe che Ruth aveva conosciuto Boaz, la incoraggiò a continuare ad andare a spigolare nei suoi campi. Poi escogitò un piano. Sempre secondo le usanze ebraiche, quando un uomo moriva, rimanendo senza discendenza, il parente più prossimo aveva il diritto e il dovere di sposarne la moglie. Per questo Naomi invitò Ruth ad andare da Boaz. Leggiamo al capitolo 3 e versetti da 1 a 13. Poi Naomi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, non cercherò io un posto di riposo per te, affinché tu sia felice? Ora Boaz, con le serve del quale tu sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, questa sera egli deve vagliare l'orzo sull'aia. Perciò lavati, ungiti, mettiti le vesti migliori e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui fino a che non abbia finito di mangiare e di bere. Quando andrà a coricarsi, osserva il luogo dove si corica. Poi va, scoprigli i piedi e coricati tu stessa, ed egli ti dirà ciò che devi fare. Ruth le rispose, farò tutto quello che dici. Così scese Elia e fece tutto ciò che la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò e bevve, e col cuore allegro andò a coricarsi accanto al mucchio di grano. Allora ella venne pian piano, gli scoperse i piedi e si coricò. Verso mezzanotte egli si svegliò di soprassalto e si voltò, ed ecco, una donna giaceva ai suoi piedi. «Chi sei tu?» le disse. Ella rispose, «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Egli disse, «Sii benedetta dall'Eterno. Figlia mia, la bontà mostrata quest'ultima volta supera quella di prima, perché non sei corsa dietro a giovani poveri o ricchi. Ora dunque, non temere, figlia mia». Io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ora è vero che io ho il diritto di riscatto. Ma Cenne è uno che è parente più stretto di me. Passa qui la notte, e domani mattina, se egli farà valere il suo diritto nei tuoi confronti, va bene, lo faccia pure. Ma se non vorrà far valere il suo diritto con te, io farò valere il mio e ti riscatterò, come è vero che l'Eterno vive. Sta coricata fino al mattino. Così ella rimase coricata ai suoi piedi fino al mattino, ma si alzò prima che uno possa riconoscere un altro, perché egli aveva detto: «Nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia». Poi aggiunse: «Porta il mantello che hai indosso e sorreggilo». Ella lo sorresse, ed egli vi versò 6 misure di orzo, glielo mise sulle spalle. Poi essa rientrò in città. Così tornò dalla suocera, che le disse: «Sei tu, figlia mia?» Allora essa le raccontò tutto ciò che l'uomo aveva fatto per lei, e aggiunse: «Mi ha anche dato queste 6 misure di orzo, perché mi ha detto, non devi tornare da tua suocera a mani vuote». Naomi disse: «Rimani qui, figlia mia, finché tu sappia come andrà a finire la cosa, perché quest'uomo non si darà riposo, finché non abbia sistemato oggi stesso la cosa». Ruth si coricò ai piedi di Boaz. Il gesto era molto intraprendente, ma Ruth non era una ragazzina e neppure un'ebrea. Ciò che è lecito per qualcuno può non esserlo per un altro. Al suo svegliarsi, Boaz chiese la ragione di tale gesto e Ruth gli rispose di stendere il mantello su di lei. Perché Boaz rimase così contento di quello che disse Ruth? Cosa disse di particolare Ruth da stimolare Boaz a benedirla? Perché Ruth col suo gesto gli aveva proposto di sposarla. In effetti, la frase «stendi il tuo mantello», per la cultura di allora, equivaleva ad una proposta di matrimonio. Ci si chiederà, come mai Boaz, uomo potente e facoltoso, non si era ancora sposato nonostante fosse avanti con gli anni? Come mai i suoi genitori non avevano trovato per lui una moglie secondo l'uso? La spiegazione la troviamo nella genealogia di Gesù, come è descritta in Matteo 1:1-5. Una delle due spie che andarono a Gerico e che furono salvate da Raab la prostituta, in seguito sposò Raab e da quella unione nacque Boaz. Boaz era dunque figlio di Raab e questo tutti gli abitanti di Betlemme lo sapevano. Chi avrebbe sposato il figlio di una cananea? Chi avrebbe dato in moglie una onorata vergine di Israele al figlio di una prostituta? Figlio di una prostituta, chissà quante umiliazioni subì Boaz. Proviamo a calarci in una società dove una condotta morale ineccepibile e una buona reputazione erano indispensabili per essere stimati e considerati. Non per nulla l'Ecclesiaste afferma che la reputazione vale più dell'olio profumato. Ecclesiaste 7:1. Basti pensare che a Mina, la grande cantante trovatasi incinta senza essere sposata, fu proibito di partecipare a spettacoli televisivi. La sua carriera fu irrimediabilmente danneggiata. Boaz soffriva di questa situazione. Non era colpa sua se era figlio di una prostituta, ma, come spesso succede, i figli subiscono le conseguenze degli errori dei genitori. La sofferenza spesso spezza il cuore, prosciuga le sorgenti profonde della vita. Ma quei momenti di incommensurabile tristezza elevano l'animo, forgiano il carattere, Per questo Boaz era un uomo premuroso e sensibile. Saluta i mietitori 2, 4, incoraggia Ruth 2 e 13, si interessa della suocera di lei 3 e 17. Boaz era ricco, ma il denaro non gli aveva indurito il cuore. Il dolore lo aveva reso sensibile verso gli stranieri. In effetti, fu il solo che seppe dire parole di conforto ad una straniera. Yahweh ti dia il contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Yahweh, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Sì, Boaz seppe apprezzare la fede di Ruth perché anche sua madre si era rifugiata sotto le ali del Dio di Israele. Solo Boaz poteva comprendere il dolore del rifiuto, del disprezzo, del non dimorare nel proprio paese. Boaz considerava Ruth come nessun israelita poteva fare. Boaz comprendeva Ruth come nessun altro. Fu così che Boaz in seguito sposò Ruth. Un matrimonio veramente singolare. Una moabita che sposa il figlio di una prostituta cananea. Mi stupirei se il loro matrimonio fosse stato onorato come meritava. Perché troviamo nelle nostre Bibbie questa storia che può sembrare romantica? Come mai viene narrata la vita di una moabita che per legge era esclusa dal culto religioso? Deuteronomio 23:3. Perché Ruth divenne la bisnonna di Davide e un membro della genealogia di Gesù. Cosa ci insegna questo libro? Cosa ci insegna la vita di Ruth? Che le vie di Dio non sono le nostre, che i suoi pensieri non sono i nostri. Personalmente non avrei inserito nella genealogia di Gesù due donne, quali la prostituta Rahab e Ruth la moabita. Ma il metodo di Dio è quello di volgersi verso gli ultimi, verso gli scartati dalla società. Se tu sei una persona che ha avuto una vita travagliata, se sei un fallito, una prostituta, un omosessuale, un eccentrico che ne ha passate di tutti i colori, non ti avvilire. Sappi che la tua sofferenza è strumentale, non accidentale, poiché è finalizzata agli scopi di un Dio che ti ama. La vita di Ruth ti insegna che se abbandoni il male, se ami Dio sopra ogni cosa, egli può rendere il tuo futuro meraviglioso, più glorioso di quello di coloro che non hanno avuto nella vita grossi scossoni. Molto probabilmente, come Rahab e Ruth, non vedrai le benedizioni di Dio sulla tua discendenza mentre sei in vita, ma Dio è fedele nel premiare coloro che lo cercano. Noi vorremmo per i nostri figli sempre il meglio. Un matrimonio ideale, una vita serena, una salute di ferro. Ma Dio ha altri piani. Egli permette famiglie disastrate, malattie terribili, perché in questo modo i suoi strumenti siano più affinati e più efficaci. Paul Tournier nota in un suo libro Uomo, potere e violenza che gli uomini che hanno guidato il mondo erano orfani, crebbero in condizioni familiari anormali e frustranti. Hanno perso il padre prima degli 8 anni, Luigi XIV, Pietro il Grande, la regina Vittoria. Prima dei 15 anni, Lenin, Stalin, Attila, Washington. Prima dei 20 anni, Napoleone, Marx, Annibale, Cesare, Pompeo. Orfani di padre e madre, Maometto e Hitler. Altri abbandonati, Churchill, Gandhi. Figli illegittimi, Fidel Castro, Juan ed Evita Perón. Io stesso, rimasto orfano a 13 mesi, vissuto in collegio dai 7 ai 16 anni, anche se non lascio la mia impronta nel mondo, Dio me ne guardi, posso testimoniare che il mio carattere è stato forgiato dalla sofferenza. Mi rendo conto di possedere qualcosa che altri, con una vita normale, non hanno. Forse non ti aspettavi una conclusione del genere, forse pensavi che mettessi più in risalto la fede di Ruth. Ma questa storia, che non è affatto romantica, mi ha insegnato qualcos'altro. Le vie di Dio sono insondabili. In questa vicenda ho visto un Dio meraviglioso, un Dio che non è vincolato al nostro perbenismo, alla nostra cultura, che non si serve sempre del nostro passato incorrotto. Io avrei destinato alla fama i figli di Mosè, di Elia, di Isaia. Avrei riservato il trono al primo figlio di Davide, anziché il figlio di Bat-Sheba, con la quale Davide commise adulterio e della quale fece uccidere il marito, Salomone. Sì, sono incapace di spiegare le vie di Dio, perché il modo in cui egli manifesta la sua bontà non mi è sempre chiaro, e a volte gradito. Mi diceva tempo fa un amico in senso negativo, che io invece considero positivo. Come sei cambiato? Una volta eri una roccia, eri più convinto, ora ti vedo un agnello. Per forza. Più conosco, più comprendo, meno certezze ho. Ora vedo tanti aspetti di un problema, per cui non riesco più ad essere assolutista. Anche perché gli assoluti sono solo in Dio. I miei pensieri non corrono su due binari. Non vedo il mondo in bianco o nero. Questo amico era abituato a vedermi convinto delle mie convinzioni, ma le esperienze mi hanno portato a non avere nessuna fiducia in me. E a confidare totalmente in Dio, a credere che Lui sia sovrano, che tutto quello che fa sia giusto, che nulla gli sfugga, che non sia debitore di nessuno. Questo mi dà serenità e infonde in me un altro tipo di sicurezza, che Lui sia la verità e non le mie valutazioni. Io non sono una roccia. Ma l'importante è che i miei piedi appoggino sulla roccia. Deuteronomio 32, 31, 1 Corinzi 10, 4. Come Ruth, cerchiamo Dio, ripariamoci sotto le sue ali, teniamoci stretti a Lui, amiamolo intensamente con tutto il nostro cuore, perché, come Egli prende piacere a farci del male se non ubbidiamo. Deuteronomio 28, 63. Egli prenderà piacere nel premiare la nostra fede in Lui in eterno. Marzo 1995. Ellero.